I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Oggi vorremmo occuparci di due notizie uscite mentre il governo presentava la legge di stabilità. Due notizie diametralmente opposte che arrivano una dagli Stati Uniti, l'altra dal Brasile. Gli Stati Uniti infatti hanno registrato la scorsa settimana il livello più basso da 42 anni a questa parte nelle richieste di sussidi alla disoccupazione. Sono scesi a 225.000 gli americani che hanno fatto richiesta di sussidio per la disoccupazione, il livello più basso dal 1973. Un'ennesima e ulteriore e forte conferma che l'America non solo ha recuperato i livelli pre-crisi 2008, ma sta marciando anche a livelli superiori, sicuramente sul fronte dell'occupazione. Nel frattempo, molto più a sud, in Brasile, è arrivata la notizia che una delle agenzie di rating che danno i voti ai governi e alle aziende private, si chiama Fitch, ha declassato il voto al debito brasiliano portandolo a BBB-, ossia il livello immediatamente superiore al livello junk, spazzatura. Un ulteriore segnale delle difficoltà brasiliane, infatti l'abbassamento del voto viene giustificato alla luce di un Brasile che avrà una recessione economica del 3% quest'anno e dell'1% l'anno prossimo. Due scenari quindi diametralmente opposti che confermano però un'unica cosa: il futuro per le nostre esportazioni sarà sempre più diretto verso il Nord America e la battuta d'arresto dei famosi BRICS, Brasile, Russia, India e Cina, forse con l'esclusione della sola India, è ancora in corso. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Grazie, buon pomeriggio. Arriva il Jobs Act per il lavoro autonomo. In sostanza si tratta di un provvedimento che riguarda i 5,5 milioni di addetti del cosiddetto popolo delle partite IVA. E sarà previsto come collegato alla legge di stabilità ed è stato annunciato ieri dallo stesso Premier. La riforma prevede, ad esempio, che gli interessi di mora per i ritardati pagamenti si applicheranno anche ai contratti tra imprese e lavoratori autonomi e tra lavoratori autonomi. Finora non era così perché questa clausola era applicabile solo nel caso di imprese. Le spese per la formazione, tipo master, corsi, congressi, saranno integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Oggi è possibile scontarle solo fino al 50% del totale. L'indennità di maternità sarà riconosciuta dall'INPS indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività. Sono previsti i congedi parentali, come per qualsiasi lavoro subordinato, 6 mesi entro i primi 3 anni del bambino, con le stesse coperture INPS, a partire dai bimbi che saranno nati il 1 gennaio 2016. Le amministrazioni pubbliche dovranno incentivare poi la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti, anche adattando, così dirà la nuova riforma, i requisiti di bandi e procedure, rendendo più semplice l'acquisizione delle informazioni per questa particolare categoria di lavoratori. Cambia anche il quadro di riferimento fiscale, si alza a 13.000 euro annui la soglia minima entro la quale si applica l'esenzione IRAP. Poi il tetto dei ricavi per rientrare nel regime forfettario sale da 15 a 30.000 euro annui per i professionisti e viene aumentato di 10.000 euro per tutte le categorie di lavoro autonomo. In questo caso si applica un'aliquota unica del 15%. Per le start-up, così come per i nuovi iscritti al regime delle partite IVA, si applicherà temporaneamente un'aliquota al 5%, vale a dire ridotta a un terzo rispetto a quella prevista oggi. Insomma, ci sono tutti gli elementi per considerare queste norme una svolta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.